Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi all'asilo Kappa tutto tranquillo. Bene, allora mi fumo una bella sigaretta. No, vabbè, adesso no, cosa fai? Non si può fumare dentro, bisogna aspettare fuori. Vabbè, dai. Comunque oggi nessun casino, anzi è successo solo un casino, quindi possiamo essere contenti. Beh, e stiamo migliorando, avanti. Sì. Che casino è successo? No, hanno riempito semplicemente di letame il banchetto della ministra bambina Maria Stella Gelmini. Ma poverina, ma sempre lei. Vabbè, non sono so. I soliti studenti inferociti, non sanno più come comunicarle che la sua riforma non va bene, allora hanno pensato bene di farglielo capire in modo concreto. Con l'etame. E quindi il messaggio è: dall'etame nascono i fiori, come diceva De André. Tito, dai! De André, Tito! Non puoi parlare di De André quando si parla della Gelmini, stride. Vabbè. E poi oltretutto Tito è stato rieducato e quindi reagirà ogni volta che parli male dei ministri o del presidente o comunque li citi un po' a sproposito. Cosa vuol dire è stato rieducato? Ipnosi. È arrivato un ipnotizzatore governativo, l'ha tarato contro le critiche al governo. Cioè l'ipnotizzatore adesso... governativo, certo. Cos'è? È ipnosi, no? È uno che viene lì e ipnotizza il cane o ipnotizza le persone in modo che non parlino più male del governo. Funziona bene coi cani, con le persone ancora non lo so, però ho visto che il bambino Emilio Fede, che è stato ipnotizzato più di 20 anni fa quando ha cominciato a fare il direttore del TG4, è ancora ipnotizzato bene perché adesso è regredito fino al 1989, data precisa. Cioè? Ti faccio sentire un pezzo del TG4 in cui Emilio Fede commenta le proteste studentesche contro la Gelmini, però parla esattamente come un membro del Partito Comunista Cinese davanti alla rivolta studentesca di Tiananmen dell'89. Ma in cinese? Questi studenti, chi lo sa, sono arrivati anche mascherati, imbavagliati a entrare dentro Palazzo Madama, hanno ferito chi tentava di fermarli. Non è mai accaduto nella storia di una repubblica democratica come la nostra che sia accaduto questo, quello di violare quello che si può dire senza ironia è il tempio della Costituzione, cioè il Senato. Cioè questa è gentaglia, è gentaglia che si è permessa di fare quello che ha fatto. Veramente, io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati. Aia. Il bambino Fede è troppo vecchio per avere figli in età da università, sennò chissà se avrebbe evocato le botte, menate. Ma secondo me il bambino Fede dovrebbe smetterla col giornalismo. Dai, ormai ha la testa in altre cose, pensa sempre ai libri. Come ai libri? Ai libri? Ti confondi col bambino Don Marcello, no, è lui che pensa ai libri. Guarda che anche Fede adora i libri. Ma I libri in inglese, ebook. Ebook di attrici. Quei libri. Certo, lui ormai fa il trend spotter. Il trend spotter. Il cool hunter. Ma chi? Emilio Fede? Più cool hunter, Beh, forse sì. Lui ormai lavora per Lele Mora, fa il casting. Ah, il casting, certo. La preselezione per entrare nel giro del bambino Lele Mora la fa Emilio Fede. Succede così, vanno nel suo studio. Quello di TG4? Forse sì? Anche. Sono cose strane ma vere. E quindi il bambino Emilio riceve questi libri, sì, di cui lui è appassionato, ebook. Guarda le figure, indica. E dice questo, insomma, è quello il suo lavoro, capito? Tutto bello abbronzato, insomma, sembra quasi Valentino, lo stilista. Sì, è vero, uguale. Lui dovrebbe dire basta col giornalismo, io mi occupo di donne. Oltretutto, guarda, lo stanno facendo tanti, quello di dire basta col giornalismo, basta con la politica, mi occupo di donne. Lo sta pensando anche la bambina Hillary Clinton. Finita l'esperienza di segretario di Stato, non intende di nuovo fare le primarie per diventare presidente, ma vuole tornare a occuparsi dei diritti dei bambini e delle donne. Delle donne, è un'ottima idea, almeno smette di farlo suo marito, lo fa ma un po' cosa? Lei. Cosa? Ma adesso è lui, no? È Bill che si occupa delle donne. Cioè, Bill Clinton. Ah, lo sanno tutti, Drago! È a capo di non so quante organizzazioni per la difesa dei diritti della donna. Sì, è vero, fa volontario. Cose della donna, cose della donna. Il problema è che lui vorrebbe occuparsi delle donne. No? Ma le donne... Cosa? Scappano. Ma... hanno paura. Ma no, ma povero bambino ma Bill Clinton. Ma quanti pregiudizi! E lui è vittima di gossip di una cosa di 12 anni fa, quasi, sì. Pensare che lui veramente è un sincero femminista. Lui è uno di quelli degli anni 60, il Campus, Jane Fonda, quelle cose lì. I sigari cubani. E poi lui è un convinto protettore della tradizione orale femminile. Ma sì. Dai, forse sarebbe meglio che non lo dicesse troppo in giro. Ma no, la tradizione di passarsi conoscenze attraverso la narrazione orale, tipica delle donne di certe parti dell'Africa, dell'America Latina. Certo. A cosa pensavi tu, dai? Ma niente, ho avuto un flash con i sigari cubani, la stegista 21enne, lo studio ovale. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Pinocchietto va a palazzo. Pinocchietto va al palazzo. Con i libri sotto braccio. Con i libri sotto il braccio. La lezione non la sa. La lezione non la sa. 104 piglierà. 104 piglierà. Con il 5 non si passa. Con il 6 così così. Con il 6. Con il 7 benvenino. Con il 7 benvenino. Con il 8 benvenotto. Con il 8 benvenotto. Benvenotto. Con il 9, professore. Con il 10, professore. Direttore. Con il 10, direttore. Chiedo asilo! E ora, bambini, e tutti a casa. Vabbè, dai, intanto che aspettiamo con calma che ci lasciano passare. Che ne dici di una sigaretta? E non ce le ho, le allora, infatti chiedevo se volevi una sigaretta delle mie. No, grazie. Però come sarebbe che non vuoi la sigaretta? Sarebbe no, grazie, ma non voglio sigarette. Ma non ti piacciono le mie? Ma non è quello. Hai smesso di fumare? Se fosse così. Ma sei fumato 10 minuti fa? Magari ho smesso 10 minuti ma fa. No, dai, però non lasciarmi solo nel girone infernale dei tossicolosi, dai. Vedi che non mi aiuti, non mi incoraggi. Ma cosa c'entro io adesso? Io ho smesso 10 minuti fa, dovresti incoraggiarmi. Il medico me l'ha detto, per smettere davvero hai bisogno di un aiuto. I tuoi amici devono incoraggiarti a non farti cadere in tentazione. Ho capito, quindi tu però... cerca di non fumarmi davanti. Capito, non è che se tu vuoi smettere devo smettere anch'io, no? Se no è una specie di ricatto. Come quando uno è a dieta e tutti in famiglia devono adeguarsi alla sua dieta, mangiare in bianco. Infatti da te non mi aspettavo niente di più, solo non fumarmi in faccia. Io lo trovo sbagliato questa cosa qui, proprio dal punto di vista filosofico. Mi stai fumando in faccia, eh? Filosofico. Non hai ancora cominciato a smettere che rompi già le palle con ste cose da estremista antifumo. Bisogna far così. È come quando vai in bicicletta, sali sulla bicicletta e diventi subito un ciclista, un purista. Un'antimacchina, vabbè. Poi ti ho solo ringraziato con ironia, quindi grazie mille. Sì, mi hai ringraziato con lo scopo di farmi sentire una cacca per il semplice fatto che io fumo, ma tu fumavi 10 minuti fa. Ma io riconosco certi ricatti psicologici. Ecco, bene. Vabbè, adesso la spengo, va bene? Ecco qua. Oh. Bravo, No, bravo un cavolo, sono troppo gentile, solo quello. E delle macchine adesso non ti lamenti, passa. Vabbè, le macchine. Ormai a quelle mi sono abituato. Vedi? Cambi idea, oh Drago, finalmente cambiamento. Vabbè. Cambiamento è la parolina magica, cambiare. Cambiamento significa anche smettere di fumare. Col tempo vedrai che non ci penserai più. Ma cosa? Alle sigarette. Ma io non ho mica smesso, eh. Ma non stai fumando adesso. Finché non ti accendi la prossima sigaretta è come se avessi smesso. Vabbè, certo. È una cosa che faccio sempre. Io smetto di fumare tra una sigaretta e l'altra. Sono bravo, eh. Tieni duro, Drago. Hai tutto il mio appoggio. Dai. Quante macchine, eh. E noi qua ad aspettare, ad annoiarci. Ma in queste situazioni qui viene istintivo accendermi una sigaretta. No, Drago, no, dai, ma è appena Che piacere. Vabbè, dai, dammi l'ultima. L'ultima, eh. L'ultima. L'ultima prima di quella dopo. Ma stai bene? Cappa. Torniamo domani e mandate i vostri sigari cubani a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.